Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Seconda puntata di Radio Next in tempi di coronavirus. Oggi parliamo di e-commerce, come le aziende stanno affrontando il picco degli ordini e come le aziende che non hanno e-commerce possono in questo momento cercare di recuperare una parte dei loro introiti che stanno perdendo con tutti i negozi chiusi grazie proprio all'e-commerce, sia B2B e B2C. Lo facciamo ai microfoni di Radio Next con Guido Lucarelli, amministratore legato e fondatore di B2X, società dedicata completamente all'e-commerce. Buongiorno Guido. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora Guido, innanzitutto la vostra situazione. Ricordiamo, B2X fondamentalmente è una società che sviluppa e gestisce e-commerce insieme alle aziende. Quindi raccontaci un attimino come sta andando in questo momento. Noi ci occupiamo di sviluppare e gestire i canali di commercio elettronico per brand, quindi per aziende in generale legati al mondo del largo consumo. Nell'ultima settimana ovviamente si è assistito a un incremento molto forte delle vendite, soprattutto su determinati brand che poi sono legati all'alimentare, ai generi di prima necessità, al pet food, mentre un sostanziale, almeno per adesso, equilibrio o leggero calo di brand che invece riguardano settori differenti come il fashion. Questo chiaramente in un momento in cui anche le aziende stesse come la nostra si sono trovate a doversi riorganizzare per lavorare, certo, chiaramente in una modalità non consona. Senti, qualche numero sugli incrementi, che tipo di volumi state gestendo in questo momento? I settori di prima necessità stanno in questo momento lavorando a qualcosa che assomiglia a 5, dai 5 ai 10 volte la media della settimana precedente. Mm-hmm. Settori non di prima necessità ma legati magari al mondo sempre dei bambini o comunque degli anziani, lavorano intorno a 20-30% in più, quindi degli scostamenti abbastanza ragionevoli. Il resto più o meno in linea o con un calo, okay, che può essere nell'ordine del 10%, quindi trascurabile in questo momento. Ecco, ma passato questo momento di super emergenza, ci aspettiamo, vi aspettate che crescano anche gli altri settori, dal momento che prima o poi comunque, come dire, anche l'abbigliamento dovremmo comprarlo, stante il fatto che la soluzione del problema del coronavirus non è proprio dietro l'angolo e magari ce lo portiamo ancora avanti per qualche settimana o peggio ancora per qualche mese? Ma è probabile che ci sarà un incremento anche degli altri settori, sempre legata alle necessità, anche se sto notando, e questo è curioso, che soprattutto in Italia c'è un incremento anche di settori che non ti aspetteresti, come il lusso, okay, dove quindi si sta un po' traslando quella che è, come dire, un settore che magari non è di prima necessità, certo, ma può essere anche legato allo svago, okay, al tempo libero, sì, e che comunque sta sicuramente in questo momento crescendo, anche perché essendo bloccato il mondo del turismo, che sull'online genera circa il 50% grosso modo del transato, verosimilmente ci si sta spostando ancora sulla parte materiali, certo, questo nel breve periodo. Certo. Senti Guido, quali sono le aree a maggiore stress in questo momento dei vostri clienti, degli e-commerce che oggi stanno affrontando questo picco? Ma in questo momento gli e-commerce hanno sostanzialmente tre aree a forte stress. Il primo è, beh, abbastanza scontato, è la logistica. Sì. La logistica perché ha due problematiche. La più immediata, che è come la raccontavo prima, un picco di ordini non previsto, che però si va a scontrare con la necessità di riorganizzarsi all'interno e quindi con delle procedure che poi sono quelle del protocollo, sì, condiviso negli ultimi giorni dal governo, che di fatto impongono di non poter lavorare ovviamente con la stessa modalità di prima, certo, e quindi sostanzialmente si ha un'efficienza più bassa oraria per ciascuna logistica. Questo è il primo grande elemento. Mm-hmm. Il secondo elemento è il customer, quindi tutto ciò che è l'assistenza alle persone, sì, perché di fatto stiamo vedendo due tipi di problematica. Il primo, dato il picco degli ordini, tutti ovviamente hanno bisogno di informazioni e spesso i ritardi delle consegne o in certe zone in questo momento non si sta consegnando, portano chiaramente le persone a contattare il customer, certo, e il customer stesso è organizzato per non lavorare in sede, per lavorare in smart working, certo, dove possibile, quindi certo, c'è questo altro tema. Il terzo tema è quello delle figure degli e-commerce manager, quindi diciamo tutte le figure legate al funzionamento del sito, sì, perché in sostanzialmente tempo reale devi gestire l'assortimento, prodotti che vanno fuori stock perché ovviamente non c'è disponibilità, e quindi hai anche un carico su questo, su questa parte, aggiunto anche al fatto che tutti i brand stanno ovviamente cercando di fare la loro e quindi di comunicare il più possibile che l'online è diventato il loro punto di riferimento momentaneo. A questo ci dobbiamo aggiungere anche tutti i nuovi clienti che magari non hanno esperienza con l'e-commerce e quindi intasano i centralini dei call center per capire come si fa a fare un ordine online. Beh, giusto per darti un dato, sì, ho visto due giorni fa, negli ultimi 96 ore su alcuni shop che fino a una settimana fa avevano circa il 50% di nuovi clienti, sì, ogni settimana più o meno, sì, negli ultimi giorni stanno girando al 94% di nuovi clienti, quindi sono consumatori nuovi, mm-hmm, ma soprattutto consumatori che non hanno probabilmente mai comprato online, e si vede da dei tipici comportamenti. Un esempio banale, mm-hmm, il numero di tentativi che vengono fatti per pagare con carta di credito, che tendenzialmente ti dà una evidenza del consumatore non avvezzo. Certo. Esattamente. E temi che magari per un consumatore normale, abituato a comprare online, sono stati già superati qualche anno fa. E una parte di questi consumatori probabilmente rimarrà alla fine anche di questo brutto momento. E certo, ovviamente è anche una grossa opportunità, ma adesso ci torniamo. Prima volevo affrontare un attimo con te, ritornare un attimo sul problema della logistica. Grande opportunità, ma anche enorme, non voglio parlare di fallimento, perché ovviamente è una situazione drammatica ed è una situazione nella quale ognuno deve cercare di capire la difficoltà nella quale tutti quanti stiamo cercando di operare. Però è altrettanto vero che tutte le catene della GDO online, Esselunga, Carrefour, Coop, Conad, supermercato24.it, tutti quanti, anche Amazon, stanno avendo dei ritardi non indifferenti, e quindi la spesa in un'ora ovviamente in questo momento ce la possiamo scordare, ma anche, senza adesso dover fare nomi, però l'avete letto magari sui vari giornali, alcune catene, una catena in particolare che ha avuto il problema di non riuscire a fare le consegne, cioè di cancellare degli ordini che erano stati piazzati dal cliente, tenendo presente che i tempi di attesa oggi sono a 2 settimane e non si riesce a trovare slot per la consegna. Guido, come si esce da questa situazione? Non si rischia di trasmettere un messaggio controcorrente, cioè sbagliato, l'e-commerce non funziona, non eravamo pronti ovviamente a questo picco di ordini, ma come si fa fronte a questa situazione? Parto da un esempio. Allora, questo picco è molto simile a quello che avviene tutti gli anni a novembre con il Black Friday. Sì. Quando c'è il Black Friday le aziende lo sanno, tutta la filiera lo sa, e quindi si prepara. Allora, 5 anni fa si assistevano a grandi ritardi, nel 2019 i ritardi sono stati molto contenuti perché le aziende erano state in grado di programmare correttamente i flussi. Mm-hmm. Sia le logistiche, sia le aziende a monte con lo stock, le logistiche, ma anche i corrieri per le consegne. Mm-hmm. Questo picco è arrivato in buona parte improvviso, perché è chiaro che dal 1° di marzo, quando si è iniziato a chiudere, non si aveva proprio contezza, e soprattutto con un effetto peggiorativo. Le logistiche e le distribuzioni, quindi i Corrieri Espressi, sì, si stanno trovando senza il 100% della loro forza lavoro, sì, perché a loro volta molte persone, per vari motivi, sono a casa, chi in isolamento domiciliare, chi ha avuto problematiche, chi è stato collegato a possibili effetti, tutte problematiche che in un momento normale non si presentano, sì, e le persone, i corrieri, il personale, lo stiamo leggendo su tutti i giornali, giustamente si sta aspettando delle risposte dalle aziende, esempio le mascherine, mm-hmm, che di certo non era un problema noto in Italia fino a 2 settimane fa, oggi è diventato, le mascherine sono come l'oro, sì. E ci sono aziende di distribuzione in questo momento magari non consegnano per 3 giorni in una data zona perché il personale non ha attrezzatura, ma questa attrezzatura non si trova. Certo. Ecco, quando quindi diciamo le aziende non sono preparate, va visto proprio su 2 aspetti. Il primo è un picco non previsto, molto importante. Mm-hmm. Il secondo, non è il personale nelle forze, qui non è neanche una capacità di fare straordinari né di reclutare nuovo personale, perché non riesci proprio a trovarlo. Ok, allora proviamo un attimino a trovare delle soluzioni. Tante aziende, tanti manager, imprenditori, professionisti ci stanno ascoltando, stiamo tutti lavorando da casa, ci stiamo rimboccando le maniche, gli aiuti del governo arriveranno, ma non contiamo su quelli, contiamo sulle nostre capacità, la nostra forza di reagire. E quindi, quali messaggi dare, che cosa fare per le aziende che in questo momento stanno gestendo un e-commerce? Poi arriviamo a quelle che non ce l'hanno, ma a quelle che stanno gestendo un e-commerce, quali consigli daresti, Guido? Sicuramente ci sono oggi tre punti di attenzione per chi sta facendo e-commerce. Io parlo per un brand principalmente, sì. non tanto per gli operatori e-commerce, ovviamente siamo tutti i giorni in questo momento in prima linea. Prima di tutto ragionare molto bene su che assortimento mettere a disposizione. In un momento di picco avere il 100% dell'assortimento non è realistico. Corretto. Quindi conviene avere magari un assortimento più corto, ma avere molta profondità. Mm-hmm. Questo è un tema centrale, mm-hmm. sia per le prime necessità che per il resto, mm-hmm. perché alleggerisce il carico di lavoro. A magazzino e logistica, magazzino di preparazione. Poi l'altro tema è sulle logistiche. Il carico di lavoro sulle logistiche, per migliorarlo, si può anche pensare di fare riordini, quindi di assortimenti, di stock scaglionati. Se tu mandi, faccio un esempio, 100.000 euro di merce in logistica, in un momento in cui la logistica fa fatica, mm-hmm. chiaramente la stai intasando. Allora utilizza magari il tema di mandare degli ordini più piccoli, scaglionati, di riassortimento per garantire mm-hmm. un po' di aria. Mm-hmm. Questo è un tema centrale. Il terzo tema è la trasparenza, cioè non puoi raccontare al consumatore che consegni in 24 ore quando in questo momento, se va tutto bene, consegni in 4 giorni, perché quindi, ovviamente questo genera un grande impatto dal punto di vista dell'informazione, certo. un'aspettativa che ovviamente non puoi corrispondere, perché tutta la filiera non è in grado di servirlo. Soprattutto bisognerebbe aiutare un pochino le persone a cercare di fare un po' di pianificazione negli acquisti e quindi provare un attimino ad educarle in questo momento di emergenza a capire che cosa ordinare oggi per riceverlo fra una settimana o fra due settimane. Senti Guido, e invece per le aziende che non hanno un e-commerce e che in questo momento stanno vedendo i loro fatturati drammaticamente calare, quali consigli daresti? E-commerce B2B, e-commerce B2C, in questo momento che in cui tutti lavoriamo da casa, si riesce a metterlo in piedi? Pensare di mettere in piedi un nuovo e-commerce in 10 giorni è sostanzialmente impossibile. Ok. Perché anche se tu riuscissi a fare una vetrina in modo semplice, uh-huh. non avresti poi tutta l'infrastruttura sotto per garantire le consegne. Ok. Quello che a mio parere in questo momento, e poi il suggerimento che io sto dando e stiamo applicando con i nostri clienti che hanno questa situazione, è di costruire delle partnership con chi e-commerce lo fa già. Okay. Faccio un esempio, se tu hai un prodotto, noi lo stiamo facendo proprio in questi giorni, poi senza fare nomi ma farvi capire la logica, chi fa latte, che è ovviamente un bene di necessità in questo momento, chi fa non latte fresco bambini, o latte fresco latte non a lunga conservazione, magari fare una partnership con produttori complementari che già hanno online, sì. che possono darti tutta l'infrastruttura. A questo punto il tuo time to market diventa da varie settimane a pochi giorni. Fantastico, ottima idea. Garantisce una visibilità, ti garantisce uno stock e ti elimina tutti i problemi. Sicuramente Amazon e soprattutto la parte marketplace, ma anche altri marketplace possono funzionare, fermo restando che se un'azienda non si è ancora avvicinata all'e-commerce fino a un mese fa, verosimilmente non ha alcuna cultura e certo. non ha la capacità di farlo, e anche le agenzie in questo momento sono sotto stress. Certo, sono perfettamente d'accordo con te Guido, però mi sorge allora una riflessione: non è questo allora il momento per incominciare a pianificare per le aziende un e-commerce B2B o B2C, quindi di vendita a terzi, ad altre aziende o al cliente finale, con un progetto di medio-lungo periodo, proprio non tanto per affrontare l'emergenza, ma quanto per andare a catturare quei clienti nuovi dell'e-commerce che a causa di questa situazione gioco forza si sono dovuti spostare sull'online per fare i loro ordini, e che presumibilmente alcuni di questi continueranno a comprare online anche una volta finita questa situazione di emergenza. Assolutamente sì, e anche qui un esempio: 2 anni fa per un brand importante era convinto che il proprio e-commerce non fosse la soluzione idonea, perché ovviamente vendeva molto bene sui grandi marketplace. Certo. Io gli feci notare che era un errore pensare di non avere un canale proprio, magari anche piccolo, perché in un certo momento storico, laddove i marketplace per qualche motivo si fossero messi di traverso, sì, lui avrebbe avuto più distribuzione online. Ecco, è successo esattamente questo, e oggi questo signore sta facendo fatica, 1000 ordini al giorno. Ah, okay. Quindi in questo momento, in realtà, quella scommessa fatta 2 anni fa è stata pagato. Ha pagato. Assolutamente sì. Guido, un'ultima domanda prima di salutarci. Per rilanciare in questo momento l'economia, il digitale, oltre all'e-commerce, dal tuo punto di vista, che cosa potrebbe mettere in campo? Beh, intanto oggi il digitale è il primo punto di comunicazione e bisogna rendersi conto che con una comunicazione corretta questo ha un vantaggio enorme nell'informare i cittadini e anche nel tranquillizzarli. Abbiamo forse la parte di panico, che poi o di terrorismo psicologico, che è stato necessario in questa fase, prima o poi dovrà cedere il passo chiaramente a una fase di tranquillizzazione, certo, della popolazione. Il digitale in questo mi ha ancora davanti una scommessa importante, scommessa non ancora vinta, perché la comunicazione in questo momento non sta lavorando adeguatamente o non benissimo su tutti i fronti. Questo è il primo grande tema. Ma secondo te, scusami, perdonami, noi non potremmo avere come italiani, come sistema paese, quell'enorme opportunità dovuta all'emergenza, ma quell'enorme opportunità di fill the gap, cioè di colmare la distanza che abbiamo con gli altri paesi occidentali da un punto di vista del digitale, proprio in questo momento? Allora, una settimana fa ho fatto esattamente questa osservazione. Ha fatto più 15 giorni di coronavirus che 15 anni di politiche sul digitale. Perché l'esempio banale è: tutti oggi siamo in smart working, aziende che fino a 3 settimane fa erano contrarie, ma anche la pubblica amministrazione. È di ieri mattina o dell'altro giorno una nota per cui puoi avere la ricetta via WhatsApp. Ora, a prescindere che non sarà magari applicabile nel lungo periodo, certo, ma ti dà la dimostrazione che poi quando è necessario le cose le puoi fare. Ringraziamo Guido Lucarelli, amministratore delegato e fondatore di B2X, www.b2x.it, ai microfoni di Radio Next per questa interessantissima puntata. Grazie mille, Guido. Grazie a voi, grazie Pepe, a presto. E noi ringraziamo anche Felix dall'altra parte del vetro e Radio Veronica One per averci ospitato anche in questa puntata dai microfoni di Torino. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi. Mi raccomando, non molliamo e non arretriamo di un centimetro e nemmeno per un secondo. Un in bocca al lupo a tutti quanti. Ci sentiamo la prossima settimana alle 13.45 su Radio Next, Radio 24, oppure il lunedì col podcast esteso. Un in bocca al lupo e una buona giornata da Pepe Moder.